Fuori di noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto. Cari amici radioascoltatori, bentornati sulle frequenze di Blu Radio Veneto per un'ennesima puntata di Fuori di Noi, trasmissione dedicata al mondo degli oratori e al mondo giovanile. In mia dolce compagnia, anzi in mia compagnia perché lei è dolce ma io non tanto, e abbiamo ovviamente ancora una sorpresa, cioè abbiamo sempre la Anna Zampieri dell'Azione Cattolica Diocesana. Ciao Anna! Ciao a tutti, ciao Cristian. Beh, innanzitutto ti faccio un regalo perché hai già resistito dopo una puntata a rimanere con me in questo contenitore radiofonico. Anna, tu stai facendo veramente un grosso favore al sottoscritto. Grazie Anna. Grazie a te. Ecco, io spero che ti sei un po' divertita la scorsa volta. Questa volta avrai un ruolo ancora più importante, diciamo, perché abbiamo già degli ospiti in studio che poi nella seconda parte presenteremo e che sono venuti a trovarci per raccontarci ovviamente come vivono loro l'esperienza dell'oratorio. Ma Anna, rintroduciamo, ricordiamo come abbiamo fatto la scorsa volta, perché ci sei qua insieme con me all'interno appunto di Fuori di Noi. Sì. Perché appunto io faccio parte dell'equipe diocesana CR, sono anche educatrice dei ragazzi in parrocchia, e appunto quest'anno con la CR e noi associazione abbiamo stretto una collaborazione per far partecipare i ragazzi al programma radiofonico Fuori di Noi, e quindi a partire da 4 febbraio per un sabato al mese i ragazzi dell'Azione Cattolica parteciperanno alla trasmissione e registreranno il loro contributo, che avrà come rubrica il tema "In oratorio si punta in alto", quindi sarà una rubrica incentrata sulla spiritualità, dove i ragazzi potranno raccontare un'esperienza che hanno fatto all'interno del gruppo parrocchiale, dove hanno incontrato, ecco, Gesù, l'hanno conosciuto più da vicino. Sì, una collaborazione che si rinnova, perché appunto anche l'anno scorso Anna, insieme anche con l'altro responsabile Iafti, che ricordiamo e salutiamo tanto perché è molto simpatico ed è stato più volte ospite di Fuori di Noi, l'anno scorso abbiamo tentato questo esperimento che ha avuto un gran successo, anche perché i ragazzi si sono sentiti veramente protagonisti di un mezzo, la radio diocesana, che è a disposizione appunto di tutte le parrocchie e tutte le realtà della nostra diocesi di Treviso. Abbiamo anche il settimanale diocesano, tutte le diocesi hanno questi mezzi a loro disposizione, e noi abbiamo creato nel nostro piccolo, tra Noi Treviso e ACR Treviso, questa splendida, diciamo, sinergia, questa rete per creare, diciamo, anche una occasione appunto per raccontare, per amplificare quello che di bello vivono all'interno dei gruppi, che sia quello della CR o gruppo dell'oratorio, per noi è la stessa cosa. L'importante è che all'interno di una parrocchia, di una comunità, si sentano parte di una grande famiglia. Questa è la cosa più importante. Fuori di Noi, quando vai in onda, Anna? Vediamo, adesso ti interrogo un pochettino e dopo ti do un voto. Allora, Fuori di Noi va in onda il sabato alle 14 e la domenica alle 12:30. Risposta esatta, ma Anna, se io volessi mandare, non so, una fotografia oppure anche una piccola testimonianza, un racconto della mia esperienza oratoriale, come posso fare, Anna? Allora, potete scrivere all'indirizzo email fuoridinoi@libero.it, oppure mandare un SMS al numero 320 61 46 964. Aspetto uno dei tuoi messaggi allora, Anna. Mandoli in forma anonima, io lo raccolgo e poi ovviamente lo racconterò la prossima settimana, lo leggerò durante la nostra puntata settimanale. Anna, però bisogna ricordare anche questo, che il nostro programma va in onda all'interno di una trasmissione appunto radiofonica, ma addirittura intorno ad una frequenza che è quella di Blu Radio Veneto, che è una, diciamo, una sintesi di tante radio passate che si sono unite e che adesso praticamente hanno frequenze che possono raggiungere tutte le nostre diocesi, diciamo, facenti parte della regione Veneto. La nostra puntata, ogni puntata di Fuori di Noi, ogni settimana può essere riascoltata anche all'interno del sito di Blu Radio Veneto, www.bluradioveneto.it. Basta cliccare sul podcast programmi. Questo non so se lo sapevi, Anna. Lo sapevi? Non ancora. Ecco, adesso allora adesso so. Puoi andare sul sito e appunto riascoltare appunto la tua voce e la voce appunto degli ospiti che avremo in studio e che abbiamo avuto in studio periodo, nelle settimane diciamo passate. Un esperimento anche questo, un modo di raccontare, un modo anche di fare un viaggio rimanendo fermi, ma noi continueremo diciamo a raccontarvi anche l'esperienza oratoriale andando proprio negli oratori. Abbiamo sentito nelle settimane passate alcuni presidenti di territoriali, abbiamo sentito la realtà di Padova con il presidente Don Gabriele Pedrina, abbiamo sentito la realtà di Venezia con Don Fabio Mattiuzzi, quella di Treviso con Don Bernardo Marconato, quella di Vicenza e anche quella di Trieste. Tante altre territoriali ovviamente saranno ospiti della nostra trasmissione settimanale per raccontare anche come vivono l'oratorio, anche diciamo realtà o diocesi molto lontane dalle nostre, perché si parla sempre di noi, ma ciascuno ha la propria originalità, ha le proprie attività e il proprio modo di vedere e di pensare alla realtà oratoriale. Ma adesso, dopo aver salutato, perché è d'obbligo, il nostro regista Eddie Daici, e ci inseriamo, dedichiamo diciamo a tutte le persone che ci stanno ascoltando sulle frequenze di Blu Radio Veneto la prima canzone del programma, una canzone di qualche anno fa, qualcuno la riconoscerà, qualcuno magari farà difficoltà, ma c'è stato anche un remix, quindi qualcuno sicuramente appena sentirà le prime note la capirà e diciamo ricorderà questo brano dei Gazebo che cantavano I Like Chopin. Remember that piano, so delightful, unusual, that classic sensation, sentimental confusion. Used to say, I like Chopin, love me now and again. Whoa. Say goodbye to desire when we are together. Rainy days growing in your eyes. Tell me, where's my way? Questa puntata settimanale di Fuori di Noi con I Like Chopin dei Gazebo di qualche anno fa, mi pare appunto di legge del 1983. A te piace Chopin, Anna? Sì. Ti piace la musica classica? Sì, abbastanza. Ah, ecco un'altra cosa che abbiamo scoperto, perché noi oltre a parlare di oratori cerchiamo di scoprire anche chi sono i nostri co-conduttori, l'Anna appunto che stiamo scoprendo in queste prime settimane, responsabile della Chiesa Diocesana e anche ovviamente una nostra compagna di viaggio da qui fino alla fine di quest'anno, di questa stagione diciamo radiofonica. Ma adesso andiamo al cuore del programma, Anna. Abbiamo qui due ospiti, sono qui che aspettano da diversi minuti e vengono da una realtà molto distante, perché vengono dal Comitato Territoriale di Noi Venezia, dalla Diocesi di Venezia, precisamente da Favaro Veneto, e quindi salutiamo e abbracciamo idealmente, perché ci hanno fatto la cortesia di venire qui in studio, Luciano Bulegatto e Lisa Favaretto dall'oratorio Papa Giovanni Paolo I di Favaro Veneto. Ciao! Ciao. E benvenuti e benvenuti a Fuori di Noi. Allora, siamo qui appunto per parlare di oratorio. Innanzitutto una breve presentazione. Iniziamo, ovviamente siamo galantuomini, iniziamo da Lisa. Chi siete? Che ruolo hai all'interno dell'oratorio? E una brevissima presentazione e poi passiamo a Luciano. Ciao a tutti, io sono Lisa, vengo appunto da Favaro e faccio parte del Noi della mia parrocchia e anche sono membro del comitato Noi della provincia di Venezia, del direttivo. Quindi consigliere di oratorio e anche consigliere territoriale. Nella vita cosa fai? Nella vita sono infermiera e lavoro all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Benissimo, Luciano. E allora io sono invece l'addetto alle attività culturali e sportive, mi chiamo Luciano Bulegato, ciao a tutti. E cosa fai di bello nella vita, oltre a fare il responsabile? Io sono pensionato. E cosa facevi prima di essere pensionato? Prima invece siamo curiosi. Avevo un negozio di alimentari, ero alimentarista e l'ho condotto per 46 anni. Molto poi bene. Mi sono ritirato e ho preferito dare una mano alla parrocchia. Molto bene, quindi attività di volontariato che è nata, diciamo, appunto dopo appunto l'impegno lavorativo, ma penso che già, diciamo, lo spirito era già quando tu lavoravi, perché c'è è una passione che nasce anche quando si ha ovviamente famiglia e lavoro da coltivare in maniera, diciamo, prioritaria. Anna. Bene, allora io vorrei chiedervi da chi è composto il vostro direttivo e come l'avete formato. Allora, il nostro direttivo è composto da 10 persone, ha un presidente, un vicepresidente che è il parroco, e un tesoriere, un segretario e un addetto alle attività culturali e sportive che è sottoscritto e 5 consiglieri. Benissimo. E questi consiglieri sono giovani e adulti, cioè nel senso che età? È un gruppo eterogeneo dove ci sono dei giovani e degli adulti. E diciamo che le persone adulte sono più i maschi e le persone giovani sono più le donne. Quindi avete scelto bene, le donne sono quelle più giovani che fanno parte del vostro direttivo. Oltretutto devo dire che sono delle donne molto attive e molto in gamba. Beh certo, anche perché quando torni a casa se non lo dici questo, bravo Luciano. E come comunicate con i vostri soci e quali sono, non so, le vostre attività? Generalmente comunichiamo con SMS oppure con email. Quando c'è bisogno di fare qualche assemblea si porta la lettera. Certo. Quindi e quali sono, diciamo, le vostre principali attività? Cosa fate durante l'anno? Beh, durante l'anno abbiamo la festa della Befana, la festa del Carnevale, la Sagra. E quest'anno addirittura la festa di Carnevale dovremmo fare addirittura 3, perché c'è una proposta per farne una che sia più riempitiva, che ingobbi un po' tutti quanti, mentre invece le altre sarebbero più per la scuola materna e per la CR ben definite. Questa invece vorrebbe conglobare tutti quanti coloro che partecipano alla parrocchia, soprattutto naturalmente i giovani. Poi abbiamo la Sagra, abbiamo il Grest naturalmente, che è il nostro punto forte, la festa del patrono. Quest'anno vorremmo aggiungere una novità, abbiamo già parlato appunto con Lisa in macchina, vorremmo finalmente dedicarci anche ai nonni e faremo finalmente, spero, la festa dei nonni. Quindi un oratorio che incontra, diciamo, va incontro a tutte le generazioni. Questa è la cosa più bella e forse è l'obiettivo principale che ogni circolo padronato, oratorio Noi, ha nel, diciamo, nel suo DNA. Ma io chiedo una cosa in particolare. Abbiamo sentito tante belle realtà, tante belle attività che fate. Noi invitiamo persone che vivono all'interno dell'oratorio, ma ha ancora senso, è importante oggi far nascere un oratorio, per esempio, in una comunità parrocchiale? Ha ancora senso andare a entrare in un oratorio oggi? Perché secondo voi? Ma è molto importante invece. Una volta diciamo che la parrocchia era il senso di tutto. Oggi come oggi invece ci sono tantissime altre alternative che portano in altre strade. E quindi oggi più che mai c'è bisogno di un oratorio per aggregare e riportare ancora quei valori di cristianità uniti alla parrocchia. E voi questo lo fate attraverso le vostre attività, ma credo anche con il contatto personale, perché credo sia molto importante. Prima la domanda che faceva l'Anna era molto importante, cioè come comunicate con i vostri soci, perché credo che oggi si possono fare tante belle attività, ma sentiamo anche dai vari oratori che noi contattiamo che è difficile raggiungere le persone, cioè si possono fare delle pubblicità favolose, dei manifestini eccetera, ma credo che oggi la cosa importante è ritornare alle relazioni, ai contatti personali. Voi penso avete un direttivo, ma avete tante persone che insieme con questo direttivo vi danno una mano per svolgere queste iniziative, immagino. Indubbiamente sì, basti pensare che solo per la Sagra abbiamo qualcosa come 60 operatori volontari che danno una mano, ma anche nel GRE stesso abbiamo la nostra coordinatrice, forse in grado più di me, che la Lisa è la coordinatrice, di dire quanti animatori abbiamo e quanti bambini abbiamo. Ecco, allora Lisa, ti chiedo una cosa, diceva, te l'ha già fatta Luciano, ma questi animatori, questi giovani animatori, arrivato il momento del Grest, arrivato il periodo estivo, sono contenti di partecipare, sono sempre di più o fate anche voi fatica, diciamo, a coinvolgere? No, noi siamo fortunati sotto questo punto di vista, nel senso che anche quest'anno avevamo 25 animatori da una fascia che va dalla prima superiore fino più o meno alla quarta, quinta superiore, e sono dei ragazzi molto volenterosi che il più delle volte si fanno vivi loro prima che noi andiamo a domandare se vogliono partecipare ad aiutarci a, appunto, a fare il Grest. Sono loro che si propongono e danno veramente anima e cuore in tutto quello che fanno. Ma secondo te perché un ragazzo, tra virgolette, occupa la sua estate o parte della sua estate per partecipare al Grest? Secondo te dov'è la motivazione che spinge questi ragazzi, o la bellezza o la gioia che provano nel fare il Grest? Dove sta secondo te? Beh, sicuramente hanno un gran bisogno di stare insieme. Hanno un gran bisogno di stare insieme e soprattutto di sentirsi parte di un gruppo. E una cosa che abbiamo notato, ci siamo resi conto che hanno anche bisogno di qualcuno che li faccia sentire bene, che soprattutto gli voglia bene, perché tante volte magari li trovi che bazzicano lì intorno, che vengono, e quando li chiami ci vieni anche tu dentro, certo, anche solo per una piccola cosa, li vedi che si riempiono proprio il cuore di gioia. Bene, questo periodo qua è anche un periodo in cui si sente tanto parlare di una parola che è educazione, che vuol dire tantissime cose, ma forse vuol dire anche qualcosa di molto semplice, vuol dire essenzialmente relazione. Ma oratorio ed educazione, queste due, diciamo, dinamiche, queste due dimensioni, questi due mondi, dov'è che riuscite voi a Favaro Veneto a farli, diciamo, avvicinare, o addirittura a farli stare a braccetto? Dov'è che l'oratorio educa? Beh, indubbiamente noi cerchiamo di invitare i ragazzi lì, e già la presenza nell'oratorio è un momento di educazione. Però l'oratorio è importante appunto per questo, perché è lì che troviamo il modo e la maniera di creare questo connubio che è quello della fede e quello dell'educazione dei ragazzi, affrontando le problematiche che hanno i giovani. E qui bisogna riconoscere che abbiamo appunto il gruppo giovani del consiglio, che sono molto preparati e sono sempre attenti a queste evoluzioni, e anzi colgo l'occasione per ringraziare, perché sono tutte nuove appena arrivate le ragazze, diciamo, perché possiamo chiamarle ragazze perché sono giovani, e con loro arrivo abbiamo visto questi cambiamenti positivi proprio nei riguardi dei giovani. Il fatto stesso che abbiamo 25 animatori, prima non era possibile, con l'arrivo della Lisa, che ha preso in mano un po' la situazione, ogni anno abbiamo numeri, ogni anno aumenta il numero di animatori. Quindi su questo punto di vista dobbiamo ringraziare soprattutto le donne che fanno parte del consiglio. Benissimo. Allora, voi siete anche, però, da quello che posso capire, anche un bel osservatorio, cioè voi osservate sia appunto la categoria dei giovani attraverso il Grest, tante iniziative, e all'interno appunto del direttivo, quindi c'è la voce proprio giovanile che entra e fa parte, decide, diciamo, anche quali sono gli orientamenti e le risorse da impegnare per questo o quest'altro progetto, ma siete anche un osservatorio per vedere anche la categoria degli adulti. Allora, una domanda un po' secca, magari potremmo parlarci per ore, però dov'è che, per esempio, Lisa, noti la difficoltà principale che i giovani hanno oggi, per esempio, nella società in cui vivono? Qual è la difficoltà che vedi fanno difficoltà a superare o addirittura ad affrontare? Soprattutto hanno difficoltà a relazionarsi tra di loro, a stare insieme, non sono più abituati a parlarsi, a cercare di comunicare, a far gruppo. Questa è una difficoltà che abbiamo notato sicuramente, e ormai sono abituati a parlarsi tramite messaggi, tramite Facebook, quindi non avere più un rapporto tra persone e parlarsi a quattro occhi, e questo è sicuramente una grande difficoltà dei giovani di adesso. Chiaro. Luciano, invece, tu fai parte della sezione, diciamo, adulti, nel senso anche quelli che hanno una maggiore esperienza, anche un po' di saggezza, diciamo, ulteriore, visto tutte le esperienze che avrai vissuto come in famiglia, nel lavoro, eccetera. Allora, dove vedi invece la difficoltà oggi della categoria, diciamo, adulti, cioè famiglie, diciamo così, dove la noti, e quindi dov'è che l'oratorio deve un po' investire e mettere un po' mano per dire: questo è il problema, proviamo a cercare di affrontarlo in questa proposta o in questa, diciamo, con questo, diciamo, taglio, con questo stile? Beh, comunque gli adulti purtroppo non sono molti che frequentano la parrocchia. Appunto, abbiamo quest'anno, per dirla, nella festa della Befana, abbiamo fatto il gioco della tombola, proprio per vedere se era possibile avere una presenza delle famiglie complete, quindi anche dei genitori e soprattutto anche dei nonni. e ci sono i gruppi d'ascolto che comunque hanno una buona riuscita e che quindi coinvolgono soprattutto gli adulti. E penso che non ci sia altra soluzione, perché l'adulto è già una persona formata che ha delle decisioni ben decise prese, e quindi o viene o non viene, purtroppo non è difficile trovare qualcosa che per aggregarlo. Quindi la difficoltà dell'adulto oggi è di sentirsi parte, per esempio, di una parrocchia, di una comunità, diciamo, che è diversa appunto dalla famiglia o appunto da un impegno, diciamo, all'interno di uno staff. Cioè sentirsi parte di una parrocchia oggi per l'adulto è più difficile di un tempo, diciamo. Però devo riconoscere che, per esempio, quando c'è la festa della Sagra, la festa di maggio, è la presenza di circa 50 ragazzi, ma ci sono circa anche 50 adulti, quindi persone di una certa età che frequentano ben volentieri, e addirittura con famiglia completa, perché viene il marito, la moglie e anche il figlio. Molto bene. Quindi, molto bene, Luciano. Da quel punto di vista. Elisa, prima ci hai detto che tu sei soprannominata Fucina di Idee, quindi penso per la tua creatività, la tua energia, così allora mi veniva così la curiosità di sapere, se dovessi descrivere l'oratorio con un oggetto, quale sceglieresti e perché? Ah, guarda, l'idea di un cestino di vimini tutto intrecciato secondo me rappresenta bene l'idea di oratorio, nel senso che appunto tutti questi vari rami che si intersecano tra di loro, secondo me, possono essere rappresentati appunto dalle persone che vivono l'oratorio, che collaborano tra di loro per cercare di formare appunto un bel cesto, un qualcosa di unitario in cui appunto si possano fare un sacco di cose e dar vita a un sacco di progetti. Molto bene. Luciano, prima abbiamo detto che, prima appunto di iniziare questa intervista, che è importante oggi anche per qualsiasi realtà creare rete, fare relazione, creare rapporti, collaborazioni. E il circolo Noi di Favaro Veneto, Papa Giovanni Paolo I, che collaborazioni instaura? Cioè lavora da solo o cioè, è una sinergia insieme con tante realtà anche distanti o magari tra virgolette lontane dalla parrocchia? Beh, innanzitutto cerchiamo di appoggiarci anche alla municipalità di Favaro. Noi non abbiamo un comune, abbiamo la municipalità. E comunque però ci sono delle sinergie anche con i giovani. Per esempio, per 3 anni consecutivi, i giovani dell'Altinia, mi sembra che si chiamano Altinia 9, hanno fatto dei tornei di calcio nella nostra parrocchia in piena collaborazione con il gruppo Noi. E altri gruppi sportivi sono venuti con il Grest, sono venuti dei rappresentanti della Reia di Venezia che hanno fatto dei giochi insieme ai nostri ragazzi. E associazioni parrocchiali, collaboriamo con la CR, collaboriamo con la CG, collaboriamo con la Con altre realtà parrocchiali, sì, o esterne? No, in realtà parrocchiali, volevo dire a San Vincenzo De Paoli, che molto presente in parrocchia. Esatto, è molto presente anche quella. E esterne, beh, al momento esterne abbiamo avuto dei collegamenti, soprattutto col Grest. Col Grest abbiamo avuto dei contatti con un'azienda agricola, abbiamo avuto contatti con un agriturismo. E tanti altri. Sì. Luciano, innanzitutto ti sei guadagnato il sorriso di Anna, che è qui al mio fianco, e ha appena detto che collabori con la CR. Ah, ragazzi, ma d'altronde tutti gli oratori devono collaborare con la CR. I ragazzi che frequentano gli oratori sono i ragazzi della CR. Sì. Ma Luciano, una cosa, mi ha detto che se per esempio in questo esatto momento io andassi a Favaro Veneto, troverei per esempio una sala, cioè i vostri ambienti, diciamo, in qualche maniera prestati, così offerti, diciamo, a delle realtà anche importanti nel territorio, diciamo, anche economico, sociale. Chi troverei oggi a Favaro Veneto, adesso, se andassi? Ah, oggi, adesso, in questo momento, la Coldiretti. Ecco, perché? Perché avete dato, diciamo, sì, gli ambienti. Sì, abbiamo dato sono la disponibilità di l'uso di una stanza una volta a settimana per i suoi associati, ma non abbiamo solo la Coldiretti, abbiamo anche l'ACLI e abbiamo anche un gruppo di apicoltori. Quindi un'occasione anche questa per scambiare informazioni e magari anche per realizzare un progetto insieme per il territorio, anche, diciamo, sotto il punto di vista economico, produttivo, ma anche, penso, anche a livello culturale, perché quando parliamo di Coldiretti, ACLI, parliamo anche di storie, di una storia culturale che ci sta alle spalle. Ultima domanda, quest'anno celebra il 10° anniversario, 10° compleanno di Noi Associazione. Avete pensato a qualche festeggiamento? Avete pensato, diciamo, a qualche cosa in particolare? O meglio, ci state pensando a questa speciale ricorrenza? Lisa? Ci stiamo ancora ragionando, nel senso che progetti sulla scrivania non ne abbiamo ancora, però sicuramente sarà un bel momento da dover festeggiare, giustamente sono 10 anni in cui è presente questa associazione. E ci auguriamo che nel futuro ci possa essere una rete un po' più fitta di collaborazioni tra i vari circoli. Benissimo, Lisa. Luciano, se vuoi aggiungere qualcosa, oppure siamo al... No, penso che la Lisa abbia detto tutto quello che doveva dire, cioè ci vuole molto più coesione, ci vuole, e anche per esempio adesso quest'anno volevo, si sperava di poter fare la festa del Noi Provinciale, si sperava appunto di poterla fare a Favaro, però siamo ancora allo studio della cosa. Molto bene, speriamo invece che a Favaro Veneto ci sia proprio la festa territoriale. Vi ringraziamo tantissimo, ricordo ancora Luciano Bulegatto e Elisa Favaretto del Noi Favaro, Papa Giovanni Paolo I Favaro Veneto, del Comitato Territoriale di Noi Venezia. Li ringraziamo tanto per questa esperienza, speriamo appunto di raccontare magari nelle prossime settimane un altro viaggio alla scoperta della realtà veneziana di noi. Grazie ancora. Ciao. Ciao a tutti. Chiudiamo allora con questa puntata di Fuori di Noi, Anna, con una canzone scelta appunto dal nostro Luciano, che appunto vuole dedicare a tutti gli amici di Favaro Veneto e ai radioascoltatori, Gino Paoli con Il cielo in una stanza. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me, su nell'immensità del Fuori di Noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto.